ritmo politico, ritmo politico, ritmo politico, ritmo politico, ritmo politico, ritmo politico. È il gioco politico di una bandiera che cambia, di uno slogan che cambia, un impegno che cambia e mi fa pensare. Senza macchia dopo anni di pappa e ciccia, coi mafiosocialisti e i talponi fiduisti imbecilli, ci facciamo abbindolare da un furbastro che con la scusa del 3x2 inventa intorno a sé la sacra alleanza, una etrina cerniera che nasconde un cazzo e due coglioni. Ritmo politico, ritmo politico, ritmo politico. Uomini nuovi, figli di padri nuovi, fratelli di nuovi fratelli, ora dentro, ora fuori, mogli nuove con pellicce, motori nuovi, comprati attraverso i nuovi consigli zelanti, nuovi consulenti per il tuo nuovo benessere, in un nuovo grande club. Forza, perché il polo di libertà lascia un buco grande al centro e intorno, mente. Striscia viscido e lento il biscione del profitto, non c'è competizione, non c'è regola, non c'è tenzone. Vincere, vincenti, e vinceremo. Ritmo politico, ritmo politico, ritmo politico. Verticali, sfruttando i privilegi del moderno imprenditore che si accende illuminato da una fiamma tricolore su Fininvest e pensa. Se le tele non basta ad annullare la coscienza ai vecchi metodi, ci si potrebbe affidare al segno blu che raddrizza e fa marciare. Forza! Canta il paladino con un brivido d'arcore, dimentica che ogni tanto anche la merda viene a galla e con quello ci concima i prati verdi degli stadi, riciclando a pagamento anche in televisione, sempre uniti sotto il marchio del bifido. Biscione, ritmo politico equidistante, equipollente, equiveggente, per dimissioni dispensato dal sospetto di liberal politico, economico, culturale, potere accentratore. Ma chi controlla? Ma chi controlla? E chi controlla? Ma chi controlla? E chi controlla il controllore? Com'è, come non è, com'è, come non è, com'è, come non è, come lo vorrebbero, come non lo vorrebbero. Insomma, c'è tempo di tempo di elezioni, tempo di campagna elettorale, tempo di sondaggi. Con il 29,6% è Silvio Berlusconi il politico che maggiormente buca lo schermo. Ogni volta che lo porto a una mostra c'è qualcuno che mi chiede se mangia solo filetto. Figuriamoci, un cane ha bisogno di un'alimentazione più completa, dei bei pezzi di carne e poi tutti i sali minerali e le vitamine che servono a creare un campione come Alia. E come gli piace, lo vede? Voglia di piscione, lo canteranno in coro i bambini del mondo. Trulla la piscione, noi ci mettiamo il solco e lui il seme fecondo. Baldo rettilone, simpaticissimo, sbarazzinissimo amicone. Voglia di piscione, è un fiore azzurro, spunta in culo alla quercia. Trulla la piscione, gustoso e vispo come un salame di norcia. Baldo rettilone, sei bimbantissimo, scatenatissimo amicone. Noi della TV, noi dell'informazione sotto tiro. Com'è? Tutti protestano, ti protestano. E poi Zingaretti, leader di Forza Italia, capo dello Stato. Com'è? Com'è? Ma che domande fai, Emilio? I nomi si dare tax on city, la Bibbia se lo libero da astroni di mala su o con cime dozzu e lo ci balla l'urta spreu calalutti ad muzzo rusnero i fue e lo ci vide no e lo ci mo mi si vita rapso mi si schita pis e lo libero da o to che se ne si uni o sglossio ma che mi schiotto e lo ci balla l'urto smonte di vimma pirotti. Mentre sta per scadere l'ultimatum, il leader di Forza Italia, capo dello Stato.